Job 24. Una nuova figura professionale, il Disability Manager, entrerà nei comuni con più di 50.000 abitanti, con il compito di rendere le città accessibili a tutti. Lo prevede il Libro Bianco per l'accessibilità e la mobilità urbana, nato da un confronto del Ministero del Welfare con l'Associazione dei Disabili, che verrà presentato il 2 luglio a Roma. Capofila dell'iniziativa il Comune di Parma. Giovanni Bernini, assessore comunale all'Agenzia per le politiche a favore dei disabili, ci spiega quali saranno i compiti dei Disability Manager nei vari comuni. Il Disability Manager deve essere una persona che ha sicuramente una professionalità sociale, cioè pronto a preparare programmi sociali di aiuti alle persone disabili, dall'accompagnamento, eccetera, eccetera, ma deve avere necessariamente anche una sensibilità e soprattutto una preparazione urbanistica, nei lavori pubblici, nello sport. Cioè la persona disabile non può essere settoriale, e la persona disabile deve andare al cinema, deve frequentare le nostre palestre, le nostre piscine, non deve avere strutture create solo per loro. È una società inclusiva e quindi deve offrire le stesse opportunità. Allora il manager, disability manager, deve avere nozioni di urbanistica, sapere che cosa significa un piano regolatore, perché il piano regolatore non incide soltanto nei confronti dei cittadini cosiddetti normali e delle aziende e del commercio, ma incide soprattutto nella vita delle persone disabili. In un momento come questo è pensabile, insomma, che i comuni istituiscano una figura del genere? In un momento di crisi, in un momento di difficoltà economiche, eccetera. La scusa che c'è un momento di crisi non può essere presa per buona in questa vicenda. Cioè non può esserci che in un momento di crisi chi viene penalizzato è la persona disabile. A parte che c'è una convenzione internazionale realizzata dall'ONU, che oggi è legge dello Stato da marzo del 2009, ma è assolutamente sbagliato pensare che questa filosofia, questa politica farà spendere di più. È il contrario, farà spendere di meno. Il disability manager deve essere quella persona che fa risparmiare gli enti locali, perché noi dobbiamo rincorrere le barriere, buttarle giù costa molto di più che non farle. E proprio a Parma partirà questo autunno un corso annuale post laurea per formare questo tipo di figure, e non si esclude che moduli specifici per formare il disability manager verranno introdotti all'interno delle facoltà di architettura, ingegneria e giurisprudenza. E siamo arrivati alla fine dell'appuntamento di oggi con Job 24. Vi aspetto domani stessa ora, stessa radio, per riascoltare www.radio24.it. Un saluto da Roberta Pellegatta. I hope, I hope, I hope.